ci sei, buonasera. Tino, ci sei, buonasera. Tino, ci sei, buonasera. Io sono in radio, sono riuscito più o meno a rimettermi in moto. Hola. Eccolo qua. Vediamo un pochino cosa mi dici qua, con questa radio qua, Non ti ascolto bene, sì. Non ti ascolto bene. Aspetta, vabbè, c'ho un po' di roba accesa. Allora, guarda un pochino, forse è troppo alta. Non ti ascolto bene. Non ti sto sentendo bene, veramente. Lascia la portante bianca. Aspetta, guarda adesso, vediamo un po' se è cambiata la cosa. Ma che microfono sto usando, sì? Il 60. 60 è... ci avevo il processore inserito. Fammi un passaggio. No, aspetta che vado, mi accordo, aspetta. Siamo in uniform. Sì, uniform, Sierra Bravo. Come mi ascolti così? Guarda un po'. Si è aumentato adesso, prima eri 9.20, adesso fai da 9, fai arriva 9.30. No, vabbè, la radio. Ho tolto il... ho accordato e ho tolto il processore. Un po' nasino ti sento un po' nasino, sì. Problema, cosa vuoi ti dica? Non ho fatto niente, non ho toccato niente, l'ho solo accesa e basta. Ti ascolto bene, 27.105 e 5. Ma no, niente di strano che c'è la lineare un pochino, l'ho appena accesa, L'ho appena accesa, quindi non so cosa dirti. Ah, ma sto usando il 5005 tu adesso? No, sto usando il Kenwood. 27, 105 e 5, ti ascolto bene, sì. Lascialo scaldare un pochino, dove ti dica? Non so, aspetta. Guarda, così ha cambiato qualcosa? 1, 2, 3, prova. No, è uguale. Non mi sto spostando. No, non so cosa dirti. Oh. Aspetta. Ma è 5... Aspetta, facciamo così. Mettiti giusto tu. Prova un pochino, guarda un po' adesso. 1, 2, 3, prova. Adesso sono 27.105 giusto e ti copio perfetto. Può essere slittato appena, cosa ti dica? A forza devo trattarlo, visto, miti. Usare, adesso provo a usarlo, quello lì. Usalo un po', usalo. Perché quello è il problema di averne più di una. No, ma io non ho fatto niente di che. Non ho fatto niente di che. C'era un pochino una cosa spostata e basta. Ecco, va bene ora. Certo, adesso perfetto. Qua ci avevi spostato il ritmo. Bello. Lui del re, che me ne accorgo, però mi sto accorgendo che mi sta portando un po' fuori dalla LC, ma vabbè, non te la spera follente. Ora, prova radio, 1, 2, 3, 3, 3. Una cosa, ehi, prova radio, 1, 2, ehi, sto abbassando io il PVR, 20 watt, ola, ehi, prova radio, 1, 2, ehi, prova radio, test, ehi, prova radio, perfetto. Era coricato questo bisonte, è venuto qua a emozionarsi, porca miseria, si è emozionato e ha lasciato una nuvoletta di profumo, ma vabbè dai. Ha avuto un attimo di... si è spaesato un attimo. Oggi ci avevamo il ragazzo grande, noi così. C'era. Avevamo una bottiglietta del deodorante appresso. Poverino. Lo sto curando, gli sto dando antibiotici, vabbè. Insomma, sto tenendo un po' sotto controllo. Tranquillo, eh. Beh, brinchetti, so. Tranquilli. Tranquillo, però gli ho fatto fare delle analisi, te l'avevo detto, no? E praticamente devo aspettare 21 giorni per vedere un altro esito. No, la questione è di saltare, non ci stiamo più andando di là. No, infatti, no, ne ho messo un altro pezzo, piccolino, te l'avevo detto, voleva un metro e mezzo, No, ma non sono passati. Poi vabbè, io esco presto, non li vedo, non li sto tenendo conto più di tanto, però non ne ho detto niente, quindi sicuramente non stanno uscendo. E lasciali stare, già non ci vanno, lascia. Già gli è passato, ho provato a togliere il processore, cioè vedere. E allora proviamo a sollevare un pochino, e prova, e prova, 1, 2, e prova, e fammilo senza processore. Sì, no, ma io non mi sono fatto niente, adesso c'era quel cazzo qua, ha visto una sagoma e ha detto, oh, mica Nicolas, mi era quel cazzo di fanno Nicolas, è andato a odorarlo. Allora, aspetta un attimino, voglio fare una cosa, aspetta, se me la fa fare questo qua, non me la fa fare, dai. Ci vuole accarezzare. Il muso ti punta. Sì, ha fatto, casino nero, e poi è andato a vedere Nicolas perché non pensava che era coricato nel divano. Viene punta il muso, mi mette tra le gambe e sulla testa. Vai a giocare con Nicolas, vai a giocare. il piccolo cosa sta combinando, tranquillo. Il piccolo rompiscatole, è più rompiscatole di questo. Adesso ehi, non saltare lì, sta giocando la pallina. Dammi un secondo, vedi un attimino. Vai. Oh, guarda, ferma un attimino, se ha cambiato qualcosa, Gavi. No, non ha cambiato nulla, sì. Allora, aspetta un attimino. Ma perché il rete funziona anche se io non lo pigio? Allora, così sono perfettamente centrato, vero? 1, 2, 3, prova, guarda la modulazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, aspetta che mi devo regolare una cosa. Sì. Riprendo subito, aspetta che ho schiacciato il RIT, devo guardare una cosa, aspetta. Sì, beh, ero con, come cavolo si chiama, con il RIT Exit e tutto quanto chiuso, quindi per forza ero fuori di 5. Perfetto. RIT 00, Exit 00. Sì, guarda, io ero così, te ne accorgerai, adesso lo rimetto, guarda, ero così, giusto, sono fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, come no, aspetta, ritorniamo tutto quanto a zero, eccolo, basta, giusto, vediamo un attimino, questo invece no, aspetta un attimino, ora, ecco, questo è tutto preciso adesso, vediamo un pochino se ha cambiato, va bene, infatti, mi sembrava strano, no, ero fuori io perché c'era il RIT inserito ed era di 5, va bene, l'importante è quello, no, pensavo che era disallineata, invece è centrata. Sì, perché avevo anche io il il Ritz a 4,95 quando si è già voltato, altrimenti non me lo davo. Oioia, e vabbè, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Ole, e prova. E prova, 1, 2, e prova, test, e prova, 1, 2, e prova, test. Giocando con la pallina da tennis, io credo che un cane anche qui ti ci mai dato niente ai cani? Sì, gli avevo dato l'antibiotico quando si era fatto male alla zampa, perché sì? No, io assolutamente credo che l'antibiotico ti butta un po' giù, ti stanca, questo è sempre vivace, balle varie, quindi mi va bene così. No, sì. Mi sta rientrando. Cos'è questo rumore? Ah, ecco, c'era qualcosa che non andava. Vedi, stavo facendo un errore grandissimo io, Tino. Stavo facendo un errore grandissimo. Porca miseria, ovvi. Meno male non ho fatto danno. Avevo tutti e due gli HF accesi e ci ero collegati tutti e due allo stesso alimentatore, stavo trasmettendo e sentivo più o meno la mia voce nell'autoparlante esterno dell'altra radio. Ah, bene. No, io invece ho, vabbè, il suo alimentatore è a secco, quello del 450 è a secco, quello glielo lascio solo per lui. Mentre invece quello da perché ti spiego, piano, quello fa scivolare, vieni, ti ha fatto male, no, perché questo alimentatore qua, il PS50, dovrebbe essere 20-25 ampere, e per una radio va più che bene. L'altro invece, essendo a 50, ho collegato l'FT e più di altre radio. Sì, no, io invece devo spegnere, perché mi fa questa cosa qui. Mi fa questa cosa qui e quindi devo andarci tranquillo, e allora devo stare attento, perché mi sentivo questa sorta, ho detto Milomi, di nuovo ritorni di RF, invece no, era proprio che avevo l'altra radio accesa, va bene, dai, domani e dopo ti ripositi. Sì, e poi cosa fare, già ti ha messo brutto anche domani, credo, buono. Se domani la giornata lo permette, mi vorrei tagliare un po' di legna, perché qua scarseggia, quindi devo tagliarmi un po' di legna grossa, e vediamo, però ti dirò che non ho voglia di alzarmi presto, mi voglio riposare. E poi non lo so, se esco con Nico a fare un po' di spesa, poi vediamo, ne ho voglia di cicciotto, non so, vediamo. Sì, domenica invece tutta a riposo, e io me ne sto ancora a riposo, esco lunedì direttamente. E tu pensa che domani dovevo montare la struttura a Bonnannaro, ma no, non vado, perché intanto sarebbe solo ad andare a prendere una ricaduta, e quindi ci sono, ho trovato altri due ragazzi che non l'hanno mai fatto e ci va lui. buttato a terra e io non ho mai avuto un'influenza così. No, ma scherzo, ma vai a rispondere a questi giorni che c'è sempre tempo per fare queste cose. Quindi non so, spero che chiedo se magari ha bisogno di una mano che sta cucinando. Sì, vai, vai, io faccio entrare in casa, così si vanno tranquilli. Va bene, capitano, se ne voglia dopo, se no ci aggiorniamo, dai, che devo dare un colpo di mano qua e poi magari più tardi ci facciamo una chiacchierata se ne voglia, se no a domani, dai. Io vedo se non diciamo se mi scende, se mi cala la palpebra, sì. Chiudo, altrimenti vado a fare chiamata, già vedo un po', ok? Buona cena a te e a QRA. Sì, grazie, anche a voi. No, io dopo, vabbè, devo fare un aiuto qua, devo fare chiaro, qualche cosa. Ti volevo dire, no, io qua spengo solo una radio, perché è nello stesso palo della Mantova, e quindi quando vado con disturbare il 27-25, sempre per questione di quella insomma, che raccoglie le onde dalla 27, dai. Sì. Va bene. Dai, ce la ascoltiamo dopo, o domani, sì. o domani, io già sono, tanto domani già sono a casa, tu quando vuoi fai chiamare. Sto andando, ciao, più tardi da casa.